Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a Giovanni Marri per la regia, grazie a tutti voi per l'attenzione. Un'avvertenza, le elezioni di domenica prossima ormai alle porte ci respingono fino al 3 maggio, la trasmissione rimane saltata di una settimana. Ci vediamo domenica 3 maggio alla medesima ora. Grazie a tutti.